cosa mai sbocciata. Dove andrò e dove andrai? E chissà se tu mi penserai. Mano tesa mentre te ne vai, con il vuoto dentro il cuore ed il rimpianto del nostro amore. Un giardino sempre fiorito, amarti ancora non sono pentito. Faccio male, lo so, lo sai, la mia rabbia non si placa. Tra di noi c'era magia e tu adesso vuoi andare via. Mi lasci in piedi ma comunque solo, ed è difficile spiccare il volo, volo. Sorgerà per me un nuovo sole, scoprirò un'emozione, sono più forte ma il cuore duole, mi sfogherò con una canzone. Mano tesa mentre te ne vai, con il vuoto dentro il cuore, il rimpianto del nostro amore. Un giardino sempre fiorito, e amarti ancora non sono pentito. Faccio male, lo so, lo sai, e la mia rabbia non si placa mai. Non si placa mai. Cammino della vita.